I casi di abusi sessuali in ambito ecclesiale sono più gravi che altrove. Chi ha parametri più alti deve saper corrispondere a richieste più elevate. Lei ricordava che già all'inizio di questo millennio si era a conoscenza di casi di abusi sessuali negli Stati Uniti. Con la pubblicazione del rapporto Ryan, dal quale emerse l'enorme dimensione degli abusi sessuali in Irlanda, anche in questo paese la Chiesa si trovò di fronte ad un mucchio di macerie. Ci vorranno generazioni, disse il sacerdote irlandese Vincent Tomei, per rimediare. In Irlanda il problema si pone in termini del tutto particolari. Si tratta, per così dire, una società cattolica chiusa che è rimasta fedele alla sua fede nonostante secoli di oppressione, nella quale però evidentemente hanno potuto svilupparsi determinati atteggiamenti. Non posso analizzare la questione nei particolari. È molto sconvolgente ed opprimente vedere ridotto in una situazione simile, un paese che ha donato al mondo così tanti missionari, così tanti santi, che nella storia missionaria è anche all'origine della nostra fede in Germania e soprattutto per gli stessi cattolici d'Irlanda, dove come prima continuano ad esserci bravi sacerdoti. Come tutto questo sia potuto accadere, dobbiamo studiarlo approfonditamente e al tempo stesso vedere cosa fare affinché questo non abbia ad accadere mai più. Lei ha ragione, è un peccato molto grave su una persona che in realtà dovrebbe aiutare gli uomini a trovare la strada verso Dio, alla quale si affida un bambino, un adolescente per trovare il Signore, invece abusa di lui e lo allontana dal Signore. Così la fede come tale diviene non più credibile. La Chiesa non può più proporsi in maniera convincente come annunciatrice del Signore. Tutto questo ci ha sconvolti, mi scuote ancora oggi nell'intimo. Il Signore però ci ha anche detto che insieme al grano c'è l'erba cattiva, ma che nonostante questo la sua semina, il grano buono che lui ha seminato, continuerà a crescere. In questo noi confidiamo. Non è soltanto l'abuso in sé a sconvolgere, ma anche il modo in cui è stato gestito. Quelle azioni sono state sottaciute e nascoste per decenni. È una dichiarazione di fallimento per un'istituzione che sul suo vessillo ha scritto la parola amore. È interessante a questo proposito quello che mi ha detto l'arcivescovo di Dublino. Diceva che il diritto penale ecclesiastico, sino alla fine degli anni 50, ha funzionato. Certo, non era completo, in molto lo si potrebbe criticare, ma in ogni caso veniva applicato. A partire dalla metà degli anni 60 semplicemente non è stato più applicato, dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa di diritto, ma una Chiesa dell'amore, che non dovesse punire. Si spense in tal modo la consapevolezza che la punizione può essere un atto d'amore. In quell'epoca anche persone molto capaci hanno subito uno strano oscuramento del pensiero. Oggi dobbiamo imparare nuovamente che l'amore per il peccatore e l'amore per la vittima stanno nel giusto equilibrio per il fatto che io punisco il peccatore nella forma possibile e appropriata. In questo senso, nel passato c'è stata un'alterazione della coscienza per cui è subentrato un oscuramento del diritto e della necessità della pena. E in fin dei conti anche un restringimento del concetto di amore, che non è soltanto gentilezza e cortesia, ma che è amore nella verità. E della verità fa parte anche il fatto che devo punire chi ha peccato contro il vero amore. In Germania la valanga degli abusi sessuali ha iniziato a rotolare perché a quel punto la Chiesa stessa si rivolse all'opinione pubblica. Un collegio gesuita di Berlino denunciò i primi casi, ma ben presto divennero noti altri crimini relativi anche ad altre istituzioni, e non soltanto cattoliche. E tuttavia, le chiedo, perché le rivelazioni in America e in Irlanda non hanno fornito lo spunto per fare subito indagini anche negli altri paesi, per mettersi in contatto con le vittime, anche in modo tale da rendere inoffensivi quelli che probabilmente continuavano a compiere quei misfatti? Ai fatti in America abbiamo reagito immediatamente con disposizioni nuove e più severe. Al contempo è stata migliorata la collaborazione tra giustizia civile ed ecclesiastica. Avrebbe Roma dovuto chiedere specificatamente a tutti i paesi: verificate se accade anche da voi? Forse avremmo dovuto farlo. Per me in ogni caso è stata una sorpresa il fatto che anche in Germania il fenomeno degli abusi sessuali avesse tali proporzioni. Il fatto che i quotidiani e la televisione riferiscano con insistenza di queste cose è un servizio reso ad una chiarificazione irrinunciabile. La faziosità e l'aggressività di tipo ideologico da parte di alcuni mass media hanno assunto poi i contorni di una guerra propagandistica oltre ogni misura. Ma nonostante questo il Papa ha affermato: la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa. Era evidente che l'azione dei media non fosse guidata solamente dalla pura ricerca della verità, ma che vi fosse anche un compiacimento a mettere alla berlina la Chiesa e, se possibile, a screditarla. E tuttavia era necessario che fosse chiaro questo: sin tanto che si tratta di portare alla luce la verità, dobbiamo essere riconoscenti. La verità, unita all'amore inteso correttamente, è il valore numero uno. E poi i media non avrebbero potuto dare quei resoconti se nella Chiesa stessa il male non ci fosse stato. Solo perché il male era dentro la Chiesa, gli altri hanno potuto rivolgerlo contro di lei. Ernst Wolfgang Böckenford, giudice costituzionale emerito tedesco, ha detto: «Le parole che Papa Benedetto ha pronunciato anni fa negli USA e ora nella sua lettera ai cattolici irlandesi non potrebbero essere più severe. La ragione vera di questo decennale modo di procedere errato risiederebbe, per Böckenford, nell'agire profondamente radicato secondo la ragion di Chiesa. Il bene e la reputazione della Chiesa starebbero al di sopra di tutto. Il bene delle vittime, al contrario, andrebbe quasi automaticamente in secondo piano, nonostante che in realtà proprio loro siano le prime ad avere bisogno della tutela della Chiesa». L'analisi chiaramente non è semplice. Cosa significa ragion di Chiesa? Perché in passato non si è reagito allo stesso modo di oggi? Anche la stampa prima non ha dato rilievo a queste cose, la coscienza a quel tempo era diversa. Sappiamo che le stesse vittime provavano grande vergogna, all'inizio non sempre vogliono essere messe subito sotto la luce dei riflettori. Molte sono state in grado di raccontare quello che era loro accaduto soltanto dopo decenni. Quello che conta è in primo luogo che ci si prenda cura delle vittime e che si stia al loro fianco il più possibile per aiutarle e guarirle. Poi che si prevengano atti simili mediante un'accurata cernita dei candidati al sacerdozio, quanto più è possibile. E infine che i colpevoli siano puniti e venga loro impedita ogni possibilità di ripetere tali azioni. In quale misura questi casi debbano poi essere resi pubblici, credo sia una questione a parte, alla quale potrà darsi risposta considerando anche le diverse fasi della presa di coscienza dell'opinione pubblica. Quello però che non deve mai succedere è che si fugga e si faccia finta di non vedere e si lasci che i colpevoli continuino nei loro misfatti. È necessaria quindi vigilanza da parte della Chiesa che punisca chi ha mancato e soprattutto che lo escluda da qualsiasi altra possibilità di entrare in contatto con dei bambini. Al primissimo posto c'è, come ho detto, l'amore per le vittime, fare loro tutto il bene possibile per aiutarle ad elaborare quello che hanno vissuto.